abbassa il volume del ricevitore. Ebbene, Natalinus, caro Natalinus. Ma guardate le foto di WhatsApp. Sì, sì. Ho sentito l'audio e ho visto le foto. Ho detto sicuramente sono i pesci pescati ieri, o parte di pesci. Che pesci sono, Natalini? Ma oratine o altro tipo? No, Sara, gli occhiate c'erano. Le orate non sono entrate perché un bastardo ha buttato la rete, se no arrivi là si davi ubigliati. Io andavo a pescare sempre a fondo, invece lo so io che me l'ha insegnato un tipo come fare, a tirurù così. E come uno ha messo la rete, ma da dove? Dalla barca? Beh, sicuramente l'ha messa in mezzo al mare, da noi le orate non potevano entrare. L'abbiamo anche vista la rete. Ah, ho capito. Eia. Sono contento per te, dai. Anzi, credo fosse Gianni che andava a pescare. E bene o male. Per esempio, il periodo migliore per pescare, soprattutto tipo orate, qual è? Questo oppure... Non lo so, non so niente, Natalia, dei periodi. Questo. Ci siamo ritirati alle 4 del mattino, ma ci siamo divertiti. Addirittura mi si è rotta la canna a me, il cimino, e me ne ha dato un amico mio, che ce l'aveva in più, col calamento col galleggiante. Si parava un galleggiante e tirava in razzaruga, troppo doga. Infatti adesso quel calamento me lo insegna, quello lì, come si fa, perché io non avevo mai pescato così. Ah, un sistema diverso. Allora, Natali, guarda che noi... è che lì viene male fermarsi, ma già mi aggiusto io. Noi alle 7:30, 8:20 partiamo da casa. E quindi se ti do quel filtro, se lo vuoi provare. Ah, ok. La puoi mettere dentro il mio vicolo, la macchina. Cioè dentro lì non dice niente nessuno, io scendo e me lo prendo il filtro e lo attacco a vedere. Ehi, attanto mi, te lo do e scappo, non mi, che alle 8, dobbiamo essere lì alle 8, alla zona bancaria, la campagna. KK, adesso vediamo se entra qualcuno. Sono pazienza, sono già le 6, 7, 7 e mezza, mamma mia, fra un'ora e mezza già dobbiamo prepararci. Sono molto disfattista, si è notato, anziché essere contento di andare a mangiare a sbaffo, perché andiamo a mangiare a sbaffo, sono disfattista, sono sempre, oh, l'ona giugana, già è roba da avere una ragazza, amico, così si stufa in un giorno e ti lascia. Portati un cappotto, meglio, guarda, se ti lascia, ma io non uso, quando a mangiare cocchi, invece sei contento, ti imbriagheggi e fai vedere a mamma duia. Eia, e beh, Claudius. Portati il cappotto se sei in campagna, sto freddaretto, Ma noi stiamo nel porticato, come dire, siamo al chiuso, possiamo chiudere le porte in plexiglass oppure fare passare un po' d'aria. Sì, comunque una giacchetta me la porto sempre, perché poi se viene freddo meglio averla sempre. La porto per sicurezza, alla fine non la uso mai, lo sai, mai. Qualche volta sono andato, non ne ho mai usato. Cappa. Bene, bene, ben entrato, dai, sicuramente stai usando il DAC. No, sto usando l'Alan 48. L'Alan 48 sempre con l'MB più 5. E qual è l'Alan 48? Il mio omologato, faccio la foto e te lo mando, io ho l'Alan 48 anni. Da sempre, da 20 anni, era dentro l'armadio, è nuovo, era ancora imbustato. Nuovo, mai toccato, ha visto anche una similia. E gli ho collegato l'MV più 5 perché c'ha gli stessi attacchi, capito? Per quello l'ho preso questo già pronto, perché non va bene, differenza c'è dal DAC. No, anche da un fossil dusk. Ah, l'Alan 48, di quelli old, no, quelli che andavano meglio. Eia. Fallo lavorare anche quell'apparecchio, se no cominciano le magagne. Usalo sempre. Male non gli fa, anzi. Costava anche un bel alla GBC, altro che comprare il 48 old era. Mamma di turchi, roba di... una farmacia è come prezzi. Io ho comprato l'alimentatore che sto usando adesso, no? È un alimentatore tradizionale, miseri 5 ampere continui, 8 di picco, circa 70 euro. Quando è che sono entrato? 5 anni fa sono rientrato, 6 anni fa. 70 euro, un misero 5 ampere, quelli di picco non li conto nemmeno. Alla stessa cifra su internet ho comprato un 30 ampere switching, che problemi, non è adatto comunque, Rongini non è adatto, né nessun problema. Ogni tanto la ventola si mette a ronzare, ma quella è un'altra cosa, sicuramente è da pulire l'asse della ventola, dai, ci sarà andata un po' di polvere, un bel di polvere anzi. Guarda, ho andato al Granfotto, no, questo è l'Ara 48, quello modello normale, si illumina la vita e basta. Display originale, tutto originale, non l'ho mai toccato. Da 5 watt, 6 watt e mezzo, 6 watt e mezzo pieni. Fischiati, sì, cioè picco. Sì, l'importante sono 5 proprio esatte, con la T230 inserito come wattmetro, solo come wattmetro. E basta, perfetto. No, sempre, non l'ho mai usato. L'ho sempre avuto come omologato perché era la concessione. Eia. Io mi ricordo che tanti anni fa, tipo nell'84, omologavano certi apparati con un watt e mezzo, tipo l'M340 della Intec, con l'aborto di apparato, l'M340 era proprio primordiale, ed era omologato un watt e mezzo, tutto cupo usciva, per carità che robaccia, giusto la Intec la poteva avere, invece uscivano bene gli Zodiac, uscivano bene gli Elbex, e tutta quella roba lì usciva già meglio. Magari non so se fossero tutti omologati, però poi hanno cominciato a aumentare 2 watt, poi 3, poi 5 e adesso siamo tornati a 4 per i nuovi apparati. E vabbè, cos'è questa puzza? Mamma mia, ogni fiaco di ammoniaca. Guarda, Marcello, perché? No, è la cassetta dei gatti, forse da pulire, c'è un fiago di piscio terrificante, siccome è arrivata una ventata dalla finestra, è arrivata una ventata, mamma mia, mi è arrivata questa cosa amplificata di ammoniaca, è terribile, pipì di gatto. Puzzinosa, pipì al gatto è micidiale, va bene, mi ti ho mandato la foto, l'ho messo sopra il 275H, è lì, e usiamo anche quello, giusto per farlo camminare, intanto cosa vai, capito miei, non è che se non mi devo spostare all'altra parte della scrivania, qua invece sono all'angolo, se non rimango troppo distante dalle altre radio, invece qua sono vicino, va. Bene, andata lì, quindi bella pescata, dai, ci è andato bene. E come li hai fatti? Già mangiati, direi. No, io non ne mangio, non mi piacciono, mangio altra cosa di mare. Mia moglie se li accotti e allora si rimagna piano, erano bellimi. Sì, ho visto la foto, tutti belli da porzione, belle. Vabbè, l'importante è divertirsi, perché la pesca è anche un divertimento, non è solo, capito, già va bene, cazzo, mi si è sfasciato il cimino della canna da pesca, l'ho già riparato e tutto, perché quelle che erano in campagna è sparito tutto, non c'ho più attrezzatura. Ah già, venduta dove l'ha detto? Ah boh, laga. ordini di paratori. Allucinante, eh? Sempre così capita. Vabbè. E quindi Marco, no no, davvero, c'è un po' di venticello fresco. Un po' di maestralotto, poi a greccare, se no con maestralotto. Però è freddo, ma la giochi. Io ho messo la magliettina. Ero petto nudo con la finestra aperta, però mi ha messo la maglietta. Eia. E lì siamo un po' infossati come zona, è abbastanza in una conca, e quindi addirittura col baracchino un giorno vi ho ascoltato, tanti anni, vari anni fa, e arrivavate bassi, lì poco segnale esce, è proprio una conca, non mi ricordo il nome della zona, è bassa però. Lo sa, magari provando a chiamare riesco a arrivare, so che intanto a quando arrivare in campagna avete già chiuso, dai. Però che mi abbia fatto mangiare gamberone una volta, mannaggia. La prossima volta me li compro io e dico, io fai gamberoni alla brace in campagna a mia zia. Li compro io, però me li deve cucinare, li voglio belli umidi, non secchi come quella volta che li ha fatti lei, dice no, ho detto guarda che sono pronti, no, 5 minuti, guarda che sono pronti, no, no, altri 5 minuti, li ha fatti asciutti, capito? Invece quando li ho visti io erano proprio belli umidi. E troppo li ha lasciati sul fuoco. Almeno assaggialo uno, no? Soffiaci sopra, assaggialo, invece si vedeva anche dal colore che erano fatti. Se no, se sono asciutti, vabbè, la polpa è buona lo stesso, ma è più bello averli umidi che sa di mare ancora il gamberone. Gaba gaba, ebbè, novità. Ho sentito parlare di una bomba, di una novità incredibile sulle bande amatoriali. Roba che si ripercuoterà anche a Cagliari, non so. Niente, sai Claudio, riguarda il mondo amatoriale. Assolutamente no, al di fuori della situazione, non vedo, non sento, non parlo, non lo so, neanche di cosa stai parlando. No, ho sentito poc'anzi in VHF, non so, una novità dall'area di Milano, una notizia grossa, cosa sarà? Ma ripartizione frequenze, cosa può essere? Non ho idea. C'è un po' di movimento strano, quello so, già lo sapevo, inerente a tutte le cose, un po' di pirateria, un po' di gente, eccetera, eccetera, ma del resto non so niente. No, mi è arrivato un messaggio a me di invito sabato e domenica ad una manifestazione. Sabato sono libero, qui può darsi pure ci faccio un salto. Non so, domenica sono al lavoro io. Niente, non so niente Marco, io sono fuori dalla situazione già da tempo, non appartengo più a nessuna associazione, quindi non lo so, mi posso informare perché basta telefonare e so tutto, ma non sapevo niente. L'hai sentito in VHF oggi? È stato tu intendi in VHF, io voglio tutta attesa, ne tengo nulla. Poco fa l'hanno detto, a 6625. QQA, non so chi sia nemmeno, QQA. Non so se lui l'abbia detto, qualcun altro gli doveva mandare un messaggio con novità, grossa novità. No, ma non c'entro, non credo certi con la pirateria, forse più roba interna proprio all'attività amatoriale o alle bande amatoriali. Se sei chi è, prova a contattarlo. Perché non ce l'hai come monitor quel canale? È un ponte, mi. Sì, è un ponte. Dove alfa? Già lo so. No, non ci batte com'è. Sono un Filippo. Eravamo assieme, abbiamo preso il caffè, mi pare, oggi cos'è? Giovedì. Adesso mi ricordo se lunedì o sabato. Se è sabato della settimana scorsa o lunedì di questa settimana. Forse lunedì, perché c'era il mercatino, mi pare, sì, lunedì. Lunedì abbiamo preso il caffè e poi lo chiamo a vedere cos'è questa novità. No, chiamalo più tardi, chiamalo domani perché ancora gli devono, non so se sia lui che riceve o che manda le mail, devo avevo mandato un'email con, chi lo sa, magari una fesseria, capito? Chiamo domani perché ancora non ha ricevuto l'email o provo la telefonata della persona. Ehi, no, chissà, ripartizione bande diverse, non lo so cosa può essere. Io sapevo solo che le bande alte, le bande UHF se le contenevano le linee telefoniche da tanto. Piacerebbe impossessarsi proprio delle, sai, le ex linee tipo i radiomobili, no, quei telefoni mobili tipo quelli che usava il prefetto, no. Ma non credo che c'entri con quello, non credo che c'entri con quello assolutamente, però le compagnie telefoniche hanno le mani lunghe e gli piace molto la UHF, capito, intorno a 460, 470, forse anche più giù. Tutto lì. Vai Natalinus. Sì, e cosa vai, cosa vai? Dimmi tutto, cosa hai fatto oggi, cosa devi fare oggi, cosa farei domani. Ehi, mi ha aggiustato la canna a pesca, sono andato a Forbice e mi ha giocato buoni rugi, mi non ho avuto. Vabbè che già me la dà quello là, la canna a pesca, la voglio con quel calamento io. Adesso me la faccio insegnare, perché io pescavo in modo diverso. Guarda, una volta in via Mendola, girando a destra dopo via l'Italia, via Mendola scendendo, c'era un negozio di pesca, sì, roba per pesca, no? Erano molto gentili, ti facevano di tutto, se c'avevi il cimino rotto te lo cambiavano, se varie cose. Molto disponibili, avevano una marea di materiale, poi hanno chiuso. Tempo 2 anni credo abbiano chiuso. Non è durato molto, no? Non so se lo conoscevate. A chi? Questo negozio via Mendola Bassa di pesca, chiama da pesca, materiale da pesca. Boh. Mi ricordo qualcosa, ma non sono mai andato. Io sempre la Forbice andavo con Franco, il signor Mario. Anche perché abitavo lì, quindi, però non so, ne ho sentito parlare, c'era questo negozio, ma però non ho capito neanche chi è. Vari anni fa, ci siamo, tanti anni fa, è durato 2 annetti forse 3, e poi ha chiuso, niente di che. La gente più giovane non dura niente in queste attività, non ci sono buoni come il negozio in via Mano. L'hanno preso due tipi dopo il vecchio signor Mura, che è durato 40 anni. E dura minga, i giovani non ci sanno fare, non lo so, o si fanno spaventare subito dalla crisi, boh, non lo so. Vabbè, pazienza, ha chiuso anche quello in via Sulcis, l'ex pugile, come si chiamava, mannaggia, no, Castangia, ce l'ho sulla punta della lingua. Via Sulcis, ha chiuso quello vicino alla farmacia. Cioè tu finisci il Ponte Nuovo, no? In bocchi via Sulcis, un centinaio di metri a destra c'era anche un fruttivendolo, mi pare c'è vicino, almeno credo, sì, quel tipo robusto, alto, non mi viene il nome, mannaggia, vabbè, ha chiuso perché dice non c'era nulla, non c'era mercato, è inutile stare aperti a vendere solo punte per le fiocine, capito? Quella è Marcia, Ma? Marcia! Marcia. Non c'è più. Peccato perché, vabbè, tu dici, ci ho comprato una multa una volta, ci compravo le aste per il fucile, tante piccole cosettine, me. E anche lui ha chiuso. Peccato. Sì, di Porto Torres è quello, già lo conosco. Lo conosco. No, stavo pensando il negozio di igiene alimentare. Sì, quello ha chiuso già da diverso tempo. E Forbice, capito? L'unico che è rimasto in città è Forbice. Troppo forte signor Mario. E poi c'è Sforza l'andare i punti. E ormai da loro puoi andare solo, solo che io volevo, siccome le mie pinne sono logore, io tanti anni fa avevo comprato le rondine, sono da snorkeling, le rondine Clio, color giallo, e adesso ce l'hanno solo blu, tutti. Taglia adulti ce l'hanno solo azzurra, non blu. Giallo lo vendono su internet, solo che poi ti ripaga la spedizione, alla fine la paghi un po' di più. Poi non la puoi provare, non sai le misure. Boh. Sono andato lì, sono andato alla Forbice, sono andato alla Sportola, niente, nessuno ha le Clio, le rondine Clio gialle. Pinne gialle, mi è come il tonno. Non lo so. Però ti ripeto che Gian Mario è molto attrezzato, poi c'è un po' di conoscenza, capito? No, c'è bisogno di scendere ai punti, lui c'ha tutto e fa funzionare tutto, beh, è un'altra lì. Comunque la Sportland, mi ricordo che poi nel rilancio Altalino, stavo cercando un coltello particolare, tipo sub, da sub, non tipo. Era un Mares, aspetta come si chiama, Mares, era molto stretto, molto appuntito. Vabbè, era appena uscito dal catalogo e non ce l'avevano, non da Spotlight. Mentre tutti gli altri ti dicono è terminato, non ce l'abbiamo più, non lo fanno più. Quelli l'hanno ordinato su richiesta. Era un coltellino da 25 euro, massimo 30. Beh, me l'hanno ordinato, me l'hanno fatto arrivare in pochi giorni. Guarda che scrupolosi. Vabbè, anche se Mario se li ordini la cosa te la fa arrivare. Poi c'ha roba buona, capito? Non ne ha di mondezza. Tatalino. Ah, Mares Snake. Snake si chiamava il coltello, serpente, Snake. Bello. Sembrava tipo un arpione della razza, bello stretto, lungo e molto appuntito, con un bel paramano, un bel coltellino, più per pungere che per tagliare. Io mi ricordo che Marcia mi aveva fatto vedere un coltello, se lo vedevi non valeva lo schiaffo, no? Piglia una corda di barca grossa, poggia il coltellino, spinge appena, trac, la corda, la cima tagliata di netto, come un bisturi era affilato, e se avrei visto coltellino lo davi 2 lire, invece era un coltello super. Oh, addirittura, e già c'erano i coltelli buoni, no, soprattutto quelli da pesca. Ebbè Natali, penso di sì. Magari sta facendo roba, dai, già è lì comunque. Prima, quest'estate nulla, pensa che io da 2 estati ho un fuciletto medio, tipo il Medisten, no, però è Homer, credo che sia Homer, mai usato, è ancora nella plastica di quando l'ho comprato, bisogna ancora pompare l'aria con la pompa, capito? Mai usato. Purtroppo sta scemando la mia voglia di stare lì, immergersi. Pazienza. Poi ci vuole fiato, ci vuole. Vabbè, pazienza. Natalino? Natalino non piace il pesce, preferisce roba di mare tipo, immagino, fruttura di mare, no, quelle cose lì. Ma forse anche Gianni mi aveva detto una cosa simile, che non gli piaceva il pesce, o sto sbagliando, e preferiva anche lui la roba di mare tipo frittura di mare mista, capito? Tipo totani, tipo gambe, non lo so, cozze. esempio a Natalino piace la corsara, che ha cocce, gamberone, arcelle, tutto quello che cose lì. Bene. Sono sempre in paranoia io però quando devo fare le cose, Claudio. Oggi stiamo andando a sbaffo, no? Tranquillo, invece già mi sto mangiando il cervello pensando che devo andare lì. Mamma mia, non lo so cosa c'ho. Ehi, vabbè, anche perché sei fuori, a casa sta meglio. Io a volte quando mi invitano, se proprio sono in forma dico sì, se no no, trovo una scusa, capito? No, a casa io ceno, sto in pantaloncini, a petto nudo, metto un divano, a me stare seduto una sedia sino a tardi, sempre la stessa cosa, va vedendo, vende. Poi dopo cena io crollo, no, non esisto più, capito? Sveglia. Io mi posso sfronzare, faccio guidare mamma, eh? Ma lei sapeva guidare, solo che non ha più tanto testa, a magna, bere, e poi a una certa ora ce ne torniamo, tutto lì, solo che io ho sempre queste paranoie, che palle, devo guidare di notte, per fare 5 chilometri, saranno 5, 7 chilometri, dai. Non so se c'è lo splatter, certo battimento, sei sparito, di 7 o 5. C'era Pomponio, a Rubinti. No, ho girato, non c'era nessuno. Vabbè, Antonello, questo baracchino mi fa battimento zero, ma non penso che sia lui, se no avrei sentito il bip. No, mica non dipenda da me. Ma infatti, sei sceso da 9, sei fondo scala qua, 9.30, sei sceso a Santiago 5. E lo spinotto difettoso dell'antenna, non sei tu Claudio, dipende da me. Mi aspetta. Adesso non lo fa abbassato, non lo fa. Comunque dipende da me. Quello spinotto, boh, mi è venuto male, non lo so. Poi si è mezzo sciolto di elettrico. Cioè, eccetera, lo devi saldare anche bene, no? Se si scioglie di elettrico per fare un po' di scaldatina, te l'ho detto, li voglio in bacche lì che li voglio. Quindi non è battimento, sono io. E l'altra giorno stavo parlando da solo, ma non male non si è bruciato l'apparecchio. Non mi era accorto che saliva a fondo scala, ma non male mai avvertito. Cioè, stavi parlando, alle 9.30 si è sceso a 5, scusate, c'è qualcuno vicino a me, che è l'unico che mi fa battimento con questo, con DAC è un po' di meno, ma con questo non sento niente, 600 metri di un altro canale, allora devo commutare alla KF. No, ma non è lui, se no avrei sentito il bip. Natalino, tu non sei mai cadere la corrente a Natalino? Qua sì. Non sei mai sentato così. Natalino, dov'è questa campagna bancaria? Beh, più o meno. Adesso non ti so dire la località, è un po' infossata però. Ti dico bancale, ma la strada credo sia quella, sì. Non è proprio bancale. La gana che naggio me. Vabbè, già vicino, dai, non è che... Ehi, a mancare io vado con Ugeno, mia figlia da Piero, a Pitere c'è a mancare, che è un carissimo amico di mio genio, lava la macchina, capito, la sua, della moglie, della figlia. Anzi, mangia un bel bene lì, un bel bene, pizza grande, bella, buona. E in UE, al locale dove lavora tua figlia? No, Bancali da Piero, a Bancali, forse ci è andato Gianni a mangiare anche. Oh, non lo conosco, assolutamente. Io alla fine... fine, quando c'era il compleanno mio, andavo sempre solo da Tiffany. E l'ultima volta era molto buona la pizza, perché hanno messo un pizzaiolo diverso. Vabbè, io non lo posso vedere perché mi sta sulle balle, però le pizze le fa buone. Molto buone, anche ben condite. Non credevo, perché le altre volte erano pizze più, sai, quelle da signorini, un'oliva a nord, una a sud, un capo a est e un capo a ovest. Invece l'ultima volta era ben condita. La pizza a me sono buona, ma soprattutto la pasta, no, non mi piace. Mi ho scartato un bel di pizzerie, un bel. Rimane sempre il fatto che la migliore in assoluto che io ho mangiato è quella di Ivan. Sì, purtroppo almeno io me la sono giocato. Pazienza. Vabbè, però non c'è niente da fare. È la migliore, condita bene, ben fatta, grande, una bella pizza. Peccato che è lontano, perché se avessi lavorato qua a Sassari, capito, sarei andato più spesso, però è troppo lontano. Andare da qua, la casa mia Campanella è lontano, sono 40 km andare, 40 km a tornare. E strada sono un bel po'. Infatti, sai quante volte me l'ha detto, vieni a mangiarti la pizza, vieni a mangiarti la pizza. Io tutte le volte gli ho detto che non faccio 30 km, io ho detto 30 a forfettari, no? Non mi faccio 30 km all'andata e ritorno per mangiarmi la pizza, Fossi stato più vicino potrei capire. Anche Porto Torres avrei potuto capire, ma se lì è di più su strada, no, assolutamente. A Porto Torres devi fare altri 15 km per arrivare lì, non stai scherzando. E Campanella. Non è che, immaginati, io da qua, io già non sono andato con mia moglie, mia figlia, insomma, eravamo un po', ci ho messo più di mezz'ora. Più di mezz'ora ad arrivare, capito? E poi il problema è che devi stare attento poi al rientro, perché io non bevo, ma capito, basta anche un digestivo e si è fregato, è troppo distante. Beh, Porto Torres sono 10 minuti di macchina da casa, fai la 131, sono arrivato. Ma lì devi fare tutta la strada praticamente, io da qua faccio la camionale, capito? Faccio la chiamata alla camionale sino alla zona industriale di Porto Torres, quindi è abbastanza lunga. E poi da lì sono minimo altre 7-8 km per arrivare a Campanella. Eia, ma quando penso a quella fregatura che aveva preso per il signor F, bubu. Allucinante, guarda, meno male che è riuscito a reinserirsi là dove adesso. Potremmo dire un farabutto il signor S proprio. Ah, è tutto chiuso, visto? Ma a lui è tutto chiuso, investimento a tasso zero. E lì stava lavorando, se lo lasciava fare stava lavorando. Solo che, capite? Ma già gliel'avevamo detto tutti. È riuscito a inserirsi perché è bravo. Se non fosse stato bravo non l'avrebbe richiamato. Se l'ha richiamato e ha accettato le sue proposte, vuol dire che è valido. Poi tu lo sai, porta gente, io già lo sono andato, era tutto pieno di portatori, sassaresi. Quindi alla fine c'è anche un riscontro, capito? Nonostante sia un bravo pizzaiolo, ha anche le sue conoscenze e quindi porta gente. Leia. No, vedevo una portante, o è lo smitter partito, no, va e viene un po', vedevo una portante, credo fosse Valerio. Cosa ti volevo dire? No, che poi alla fine l'avevano richiamato loro stessi da Campanella, perché i pizzaioli che avevano, diciamo, passi la pizza, poteva essere, ma erano un po' sprufoncelli, stravaganti, maleducati, capito? E allora avevano richiamato lui, infatti ha detto, per te deve essere una soddisfazione, eh? Una soddisfazione, una, come dire, non mi viene il termine, una rivalsa, capito? Perché c'erano le figlie di quello di Campanella, facevano le stronzette, facevano battute tipo qui nessuno dice, qui nessuno è indispensabile, capito? Le figlie manco si vedono in terra, già fanno da padrone, le avrei dato dei giaffi essendo la madre. È così, è così. Mi vede, era 2 alfa, addirittura mi entra quello della Liguria, figurati, a me arriva anche quello della Liguria, va bene, va bene, ehi, ma ti ripeto, lui lì è abbastanza valido, è abbastanza valido, riesce a gestire bene la situazione. E va bene, era stufo anche i battibecchi tra marito e moglie, era una cosa continua lì. Va bene, peccato per la sua pizza, non la gusterò più, ma non è nata da me la cosa, chiaro, lo sai, ma non so cosa gli passasse per la mente. Ma... pazienza. Pazienza. Natalino, Natalino, ci sei? Ma come mai? L'unica cosa che può essere mancata la luce, non so. Oppure è morto. È successo anche a me, stavo parlando e c'era un guasto qua in cabina, è intervenuta lei, mi ha attaccato tutto. Sono rimasto un'ora senza luce. Capito? Può succedere. Una volta da Oceana stavano dando batterie di auto a dai 37 euro in su, partivano dai 40 ampere, 40, 45, 50, 55, il prezzo salì, ho detto per 37 euro me la prendo la batteria, me la tengo lì, in zona barchino, se manca la luce attacco i poli e sto modulando, poi ho detto ma chi me lo fa fare? Per quei due pellegrini che ci sono in radio. Sì, non hai detto, hai detto Paolo, tanto siamo dei pellegrini, boh, c'è rimasto più nessuno. Vabbè, dai, vuol dire che mi terrò come soprammobile, mi faccio una vetrinetta e metto gli apparecchi collegati a un alimentatore in modo da accendere il display, capito? Così sono belli da vedere anche. E mi riguardo, ecco la fine che faranno i baracchini. Almeno accesi non si rovinano, ecco. Mi sa, mamma mia, che prima comunque di partire gliela cambio la sabbia ai gatti. Sì. Voglio che ce l'abbiano nuova, pulita, quella rossa noi prendiamo, la sabbia tipo argilla, che quella marrone che hanno da Lidl è troppo polverosa, poi è cemento, peggio del cemento è, si atterra poco poco umido e cade la cosa, si attacca come il cemento e devi staccare a colpi di raschietto, ma c'è quella, l'argilla è molto migliore, si stacca subito. E la prendiamo da Eurospin, 1,69 a busta da 5 kg, la lettiera, capito? Ma c'è la sabbietta in offerta, ho visto al low market. Sì, vabbè, quelli se la fanno pagare sempre un bel. Sabbie profumate, così, colà, no, prendiamo quella lì, va abbastanza bene, dai. Invece mi devo mettere una mascherina, quella con gli elastici, no, antiodore, per cambiargliela, perché mi viene il vomito, certe volte l'odore ammoniacale quando metti la faccia su, no, è forte, ti viene da vomitare, guarda. E pensa che sono anche gatte femmine, sterilizzate pure, perché il gatto maschio non sterilizzato ha un odore terrificante, terrificante. Fiagogio il gatto, soprattutto il maschio, fiagogio. Io ho il gatto in casa, ne ho avuto una, tanti anni fa, però stava molto fuori. Dentro ci stava poco, fortunatamente. Capito? Però chi ha i gatti deve... deve gestire bene la situazione, la tira va fuori, è Poggiolo, se la tira dentro casa a Sant'Antonio Mio, non fa, capito? Pure Reggiato, infatti c'era sempre la porta del Poggiolo, se mi chiusa, riesci, va fuori, e non ho mai avuto problemi, la verità. La gestione del gatto è molto particolare a casa. I gatti stanno bene in giardino, chi ha giardino, mia sorella ne ha 4-5, però c'ha il giardino, stanno tutti fuori nel giardino, non ha problemi di sabbie, sabbiette, basta, capito? Come piace a me, un giardinetto piccolino, recintato, anche per il cane, però a casa la gestione deve essere molto, molto, molto attenta, disinfettare, fare pulire in continuazione, se vuoi tenere un animale, se no, se poi abbandoni tutto, allora vivi in mezzo ai solichi. Ciao, Ora. Ciao, Claudio. Ciao, anche a Marco. Lo so che Marco lo sente. Costa troppo il gatto, costa troppo, Claudio. E allora, avanti a te, Claudio. Allora, ciao, buonasera. Sto usando il baracchino con la MB più 5, anch'io ogni tanto a farlo andare, se no non che ci vede che è già tutto, già mi ascolti lo stesso. No, ma infatti te l'ho detto, la gestione del gatto in casa deve essere molto attenta, perché il cane è una cosa, il cane fa i bisogni fuori, se il cane lo tiene pulito, guarda io ce l'ho e non, è come che non ci sia. Però esce 3 volte al giorno, capite, è un cane particolare, è un bulldog inglese che sta sempre coricato nel suo lettino. Però il cane è diverso dal gatto, ma il gatto che fa i bisogni dentro casa, in continuazione ci deve essere una grandissima pulizia, altrimenti sei buttito. Vai Marco per Franco, poi mi dice se mi ascolti Fare. Ehi, ciao Franco, ben entrato. Sì, ti ascolto e come? Ehi, se non sento te, io arriverò basso, io ho sempre 4 watt, che dopo 50 metri di cavo saranno 2 watt. Che usciti dall'antenna saranno 2 a malapena. Bene, Claudio, io gira, perché mi sta un po' disturbando, siccome c'è la corrente che viene alla fine, questo odore mi sta disturbando, io adesso mi metto i guanti e tutto e cambio la sabbia, dai. Ne approfitto, siamo poi all'ultimo momento che dobbiamo uscire e mi viene male. E visto che è entrato Franco, ti lascio con Franco un attimino, dai. Già sono qua, sono in questa stanza comunque. Poi se Natalino rientra, Natalino! Sparito. O gli è mancata davvero la luce? Ok, dai, riprendi Franco, dai, un attimino e cambia la sabbia ai gatti, dai, che è una cosa che non si crede. Ok, dai, va bene Marco, cambia la sabbietta. Va bene così. Sì, Claudio, ho ascolto, diciamo, un segnale di 7, una radio di 5, ti ascolto benissimo lo stesso, anche se non stai usando una radio piccola a quanto pare. Se non dovresti arrivare almeno no. E invece Marco arriva sì, e la radio sempre insomma, è buono lo stesso. Avanti a te Claudio. Ehi, è il DAC che sto usando adesso, vai, il DAC con l'MB più 5 c'ha neanche 10 watt, capito? 8 watt così, ma cos'è il genere? Se no questi baracchini. Pochi, ma almeno questi che ho bisogna usarli, fra, infatti ho messo la batteria nuova, l'MB più 5, sto usando l'MB più 5. La radio è buona comunque, a prescindere dal segnale, dai. Sì, sì, buonissima, buonissima Claudio, bella amplificata e chiara. Sì, questi microfoni, qualità prezzo, c'ho anche il più 4, però c'è un connettore a 6 perché lo stavo usando sullo IAESU. Capito? L'ho lasciato così, e allora sto usando il più 5, che c'è il connettore a 4 e lo posso usare sia sulla radio che con l'altra, dai. Già va bene, fa tanto va, farà niente che ve, noi siamo a Sassari per fare 2 chiacchiere, già arrivo un po' da tutte le parti, anche così non c'è problema, giusto by varioni, o by variati. Va bene, ok, mi fa un po' io alle 7, vado a portare il cane a fare una passeggiatina, così mi rilascio 10 minuti, e poi alle 8 si cena, e tu a riposo sì? Capo, no, io da lunedì sono in malattia, che ho problemi a un braccio e... E allora mi sono messo in malattia, facendo la cura, adesso vediamo se lunedì riesco a rientrare. Magari il letto, no? Chi su chi mano, per esempio, chi su gira un racchino, come te a me. Scappa, no, non è il destro, è il sinistro. Io guido con la, sono stesso con la sinistra, e quello lì è il più che gira, capito? E purtroppo, a parte quello, anche il freddo, tra freddo tutto, c'è qualche nervo infiammato, una cosa così. Fa. Io la stessa cosa, sempre dolori e sempre andenti. Adesso mi c'ho qualche giorno di riposo, fino a sabato, e poi rientro domenica, perché il mio turno, se no, salta il giro, poi, capito? E quindi niente. E si tira a campare. Piano piano, allora finito, tran, piano piano. Sì, nel senso di sì, io spero che finisca quest'anno, perché la prendeva domanda in pensione, e vediamo un po' se me la accettano. No, io l'ho già fatta e mi hanno anche risposto, però purtroppo devo aspettare come avevi detto tu, capito? Per quella retributiva devo avere 42 anni e 6 mesi, e purtroppo non ce li ho. Quindi ne faccio 40 nel 2018, devo aspettare ancora un anno e mezzo, buono 2 anni, ma non me la fottiamo da biao, ora già passa. Sì, mi sono passati 40, non è passato due. No, già tranquillo. E basta, lo pensavi, se basta non sono abituato nemmeno, io quest'anno mi sto passando e non mi sono capito. Ehi. Va bene, fa, dai, io ti lascio e vado a portare il cane che mi preparo, ok? Già ci sentiamo. Ciao anche a Marco se sei in ascolto, un abbraccio a tutti e alle prossimine. Già ci sentiamo, fra, fatti sentire, fatti vedere, ok? Ciao. Ehi, ciao maestro, ciao Claudio. Ci sentiamo, vai, buon tutto e buona passeggiata. Ciao anche a Marco se sta ascoltando, ci sentiamo, vai. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Ehi, ciao Franco. Ciao anche a Claudio, dai, buona passeggiata vocale, dai, io sto facendo quella roba dei gatti qua, ok? Ciao.